Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore. Libia, Gheddafi torna a parlare, chiede l'intervento dell'Unione Africana, che a Londra, però alla prima riunione del gruppo di contatto non ci sarà. Altri 450 immigrati a Lampedusa, occupato il municipio. A Fukushima plutonio intorno alla centrale, il governo ricostruzione con energia pulita. Roma Calcio, ripresa la trattativa per la cessione, ora una pausa dal pomeriggio ad oltranza. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Tra pochissimo tutti gli aggiornamenti sulla situazione a Lampedusa, che resta una situazione esplosiva, ma apriamo questa edizione andando a Londra subito, quindi sul fronte diplomatico, perché c'è stata una novità dell'ultima ora importante. Noi siamo in collegamento e lo ringraziamo con Leonardo Maisano del Sole 24 Ore. Buona giornata, Leonardo. Buona giornata. Leonardo, allora la novità dell'ultima ora è che l'Unione Africana, invocata questa mattina anche da Gheddafi come una possibile soluzione, cioè Gheddafi ha detto tutto quello che decide l'Unione Africana, io sono disposto a farlo, non ci sarà alla conferenza di Londra. Quindi è una notizia abbastanza negativa per le trattative. Sì, non c'è dubbio, la cosa arriva peraltro in una conferenza che è stata organizzata all'ultimo momento e che ha ancora molti lati di assoluta incertezza. Un esempio banale che sembrava la conferenza stampa finale la dovessero tenere il ministro degli esteri inglese, ospite della conferenza, insieme a Hillary Clinton e al ministro degli esteri francese Juppé, secondo le voci che circolavano, nulla di confermato, intendiamoci. Adesso invece altre voci dicono che le conferenze stampa saranno ognuna per conto proprio, cioè che Hague la terrà per conto suo e gli altri per conto proprio. Questo dà il senso semplicemente, da un lato, delle difficoltà, dall'altro anche dell'improvvisazione di una conferenza organizzata all'ultimo momento in una situazione di tensione. Quanto dicevi dell'organizzazione comunitaria africana è certamente significativo. Va detto d'altro canto invece che il recente pronunciamento del Qatar a favore, che ha riconosciuto invece la legittimità del governo degli insorti, quello stabilito a Bengasi, porta acqua tra virgolette al mulino opposto rispetto a quello dell'assenza dell'organizzazione della comunità africana. Siamo ancora in una fase di alta diplomazia in cui contorni per una exit strategy della situazione libanese libica sono quanto mai indefiniti. Ancora non ci sono. Leonardo, io ti farei ascoltare, noi questa mattina a 9 in punto la versione di Oscar con Oscar Giannino, abbiamo intervistato il ministro Frattini sulla posizione italiana. Io volevo farti una domanda su questo alla luce anche della pre-riunione che si è tenuta ieri con l'esclusione dell'Italia. Frattini al microfono di Oscar Giannino, e lo sentiamo insieme e poi ti faccio una domanda. Leonardo ha confermato che quella riunione di ieri non era importante, le decisioni importanti saranno prese oggi. Sentiamo Frattini. Non era certo un incontro, una videoconferenza per prendere decisioni o per fare alcunché. E oggi a Londra, tra poche ore, invece si prenderanno le decisioni, ci sarà un gruppo di contatto permanente in cui ovviamente l'Italia ci sarà e quello sarà il gruppo decisionale. Noi vediamo tre azioni necessarie. La prima, una garanzia del cessate il fuoco sul terreno, perché evidentemente senza questo è difficile sedersi a un tavolo e purtroppo le truppe di Gheddafi continuano a sparare. La seconda tappa indispensabile è che il Consiglio temporaneo di Bengasi prenda un'iniziativa di riconciliazione nazionale. Quel Consiglio temporaneo viene ritenuto un interlocutore affidabile per la comunità internazionale e quindi sono i libici, cioè loro, a dover prendere un'iniziativa politica dall'interno. Terzo, dall'esterno, l'Unione Africana. Io sono convinto che l'Unione Africana abbia delle chance. Allora, Leonardo, anche Frattini invocava l'intervento dell'Unione Africana, che lo abbiamo già detto non ci sarà. Qual è secondo te la posizione dell'Italia anche alla luce di questa pre-riunione di ieri? Mi sembra che il ministro Frattini l'abbia detto in modo abbastanza chiaro. Adesso vedremo quali saranno poi i risultati del corso di una trattativa che, come diceva Frattini, si deve ancora sviluppare, perché non sono ancora arrivati. Saranno 3 o 4 ore circa di conferenza dove immagino andranno a misurarsi posizioni molto diverse. Grazie, grazie a Leonardo Maisano che da Londra ci ha aggiornato in vista di questa riunione tra pochissime ore dedicata alla situazione libica. Intanto c'è un altro fronte che resta altrettanto caldo ed è quello degli sbarchi a Lampedusa. Nella notte sono arrivati nuovi immigrati e questa mattina la protesta dei residenti è ripresa. Sono 454 gli immigrati arrivati a Lampedusa nella notte, oltre 250 sono tunisini, gli altri eritrei, somali ed etiopi partiti dalle sponde libiche. Fra loro molte donne, una incinta di 7 mesi e bambini, anche 5 neonati. Gli immigrati presenti sull'isola hanno ormai raggiunto quota 6.200. In attesa che arrivino le navi per l'evacuazione, le proteste dei cittadini continuano. Questa mattina è stato occupato il Consiglio Comunale, il sindaco Bernardino De Rubeis. 6.000 e oltre abitanti tunisini che coabitano con 5.800 abitanti, liberi per le strade, costretti a bivaccare in condizioni disumane perché addirittura non a tutti viene garantito un pasto. Questo è quello che sta accadendo a Lampedusa. A Taranto intanto è arrivato il primo traghetto con 827 immigrati provenienti da Lampedusa destinati alle tendopoli di Manduria. E anche sulle spiagge di Pozzallo in provincia di Ragusa è approdato nella notte un peschereccio con 500 persone a bordo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali l'intervista al sindaco De Rubeis. Poco fa De Rubeis ha tenuto una conferenza stampa ed ha confermato questa difficoltà di far mangiare proprio gli immigrati, perché Lampedusa Accoglienza, che è la società che per contratto gestisce l'accoglienza degli immigrati in arrivo sull'isola, distribuisce 4.200 pasti al giorno. Nell'isola ci sono 6.200 immigrati e dunque 2.000 ogni giorno non sono in grado di mangiare. La situazione igienica è altrettanto preoccupante, lo conferma il ministro della Salute Ferruccio Fazio dopo aver sentito gli ispettori che ha inviato ieri a Lampedusa. Bisogna svuotare l'isola subito, ha detto uno di loro, Tullio Prestileo, che è il responsabile scientifico della sede siciliana dell'Istituto per la Salute delle Popolazioni Migranti. E dunque la situazione resta esplosiva a Lampedusa e la polemica politica va avanti. Ce ne parla in diretta da Roma Andrea Viali. Andrea. Sì, è fissata per le 11 di domani mattina a Narita la riunione del Consiglio dei Ministri dedicata a questa emergenza sbarchi. Si parlerà dell'accordo con la Tunisia, del piano straordinario per l'evacuazione degli immigrati da Lampedusa, ma anche dell'ipotesi di rimpatri forzosi di massa proprio verso la Tunisia. I clandestini devono essere rispediti nei loro paesi, ribadiscono dalla maggioranza Lega e Popolo delle Libertà. Sentiamo Gasparri. Come Popolo delle Libertà abbiamo chiesto un incontro al governo che ci sarà domani a sostegno della necessità di riportare nei paesi di provenienza coloro che entrano clandestinamente in Italia. L'accoglienza dei profughi è un dovere umanitario che l'Italia deve affrontare, ma insieme a tutta la comunità internazionale il respingimento di chi viene da situazioni dove non ci sono conflitti, bombardamenti o guerre è invece un nostro diritto. Domani il governo incontrerà anche le regioni e nell'occasione si dovrebbero conoscere le località dove saranno allestiti i centri provvisori che accoglieranno gli immigrati arrivati a Lampedusa. L'opposizione nel frattempo resta critica, in particolare sull'ipotesi dei respingimenti di massa. Sentiamo Rutelli del Terzo Polo. Credo che l'Italia debba coordinare una iniziativa contro il traffico di esseri umani. Esige questa situazione collaborazione con i paesi da cui partono i migranti, perché se non c'è collaborazione noi non possiamo certamente gettarli in mare, sarebbe un crimine, e non possiamo riportarli in un altro paese che non vuole la collaborazione. Quindi anche qui mi pare che ci troviamo di fronte a improvvisazione e propaganda. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie ad Andrea Viali. E sul campo in Libia che cosa succede? I ribelli avanzano ma Sirte non è stata ancora conquistata. Oggi a Sirte è stato Cristiano Tinazzi, con il quale dunque ci colleghiamo subito in diretta. Cristiano, tu sei ritornato dove? Dove ti trovi in questo momento? Sì, in questo momento mi sto dirigendo sulle montagne dello Jebel Nafusa per attraversarle e andare a Misda, che è una cittadina che sta a sud, a 160 km da Tripoli, che è stata bombardata nei giorni scorsi, e precedentemente l'altro ieri ero proprio a Sirte, tant'è che mi sono svegliato alla mattina con la notizia fatta da tutti i canali satellitari che la città era stata presa dai ribelli, ma in realtà non volava una mosca, non c'era uno sparo, e quindi insomma è stata un'altra guerra di informazione che si è battuta sulla Libia questa. Ecco Cristiano, perché si combatte anche una guerra appunto di informazioni, i ribelli però avanzano, questo lo possiamo confermare o no, anche se non sono arrivati a Sirte? No, nel senso che fino a ieri avanzavano, ma oggi sono stati rimandati a Bijawad, hanno subito un duro attacco dopo Bijawad, soprattutto perché c'è la tribù di Magarba, che è una tribù alleata di Gheddafi, che ha partecipato agli scontri, e adesso si stanno riposizionando di nuovo a Bijawad, quindi è un po' una situazione di stallo quella che si sta verificando, nonostante comunque abbiano un supporto aereo. Ma secondo te Cristiano, può essere che in qualche modo aspettino anche il fronte diplomatico, questa riunione di Londra che viene indicata come decisiva o no? Beh, sicuramente quella di oggi sarà un summit importante. Gheddafi ha lanciato un messaggio a chi andrà al summit. Ha detto: state eseguendo un'operazione di sterminio di un popolo e state distruggendo un paese in via di sviluppo. Ora bisognerà vedere se in qualche modo si riuscirà a trovare una via diplomatica, ma credo che sia molto difficile in questa situazione, perché comunque sul campo si continua a combattere. Sicuramente i ribelli senza supporto aereo non potranno avanzare, e d'altra parte il fronte dei governativi comunque pare tenere, anzi comunque si sta stabilizzando. L'esercito di Gheddafi sta ripiegando, ma non è in rotta, sta ripiegando in maniera ordinata perché sta eseguendo una precisa strategia militare, ovvero di quella di attirare nelle città i ribelli, di combattere caso per caso strada per strada, quindi in questo momento. Grazie a Cristiano Tinazzi. Ci sono evidentemente problemi con la linea in Libia, ma abbiamo ascoltato il suo racconto. I ribelli avanzano, però anche le truppe di Gheddafi hanno una precisa strategia. Intanto c'è un altro paese nel quale nel pomeriggio dovrebbero arrivare delle importanti novità: la crisi della Siria. Il governo si dovrebbe dimettere questo pomeriggio alle 18 ora locale, dopo le proteste che ci sono state nei giorni scorsi. Si parla addirittura di un nuovo esecutivo subito. Noi lo chiediamo ad Ugo Tramballi del Sole 24 Ore, che è in collegamento con noi. Ugo, buona giornata. Buongiorno, oggi pomeriggio dovrebbero esserci le dimissioni del governo e allo stesso tempo anche la fine di uno stato d'emergenza che dura dal 1963. Ma tutte queste notizie appaiono quasi irrilevanti rispetto a un'altra notizia che ci aspettiamo subito dopo, cioè quale sarà la reazione della gente in questi 4 mesi di primavera araba. Non è la prima volta che vediamo regimi cedere o apparentemente cedere, offrendo di fare dei passi indietro, ma queste offerte arrivano troppo tardi. Ora bisogna capire se in Siria si è arrivati, c'è stato il giro di boa, indietro non si torna più, oppure se invece, essendo la Siria un regime comunque estremamente particolare rispetto a quelli citati prima, se la Siria invece il regime riesca con queste offerte a moderare la piazza. È stata comunque un'iniziativa importante, ma secondo te entro le 24 ore si potrà formare un nuovo esecutivo, come dicono? Non ci sono trattative. Per il momento, finché appunto il regime siriano non cambia, il governo è deciso dal presidente e dall'apparato militare, dei servizi di sicurezza, quindi credo che una lista ce l'abbiano già. Appunto, il problema non è questo, il problema è vedere come reagirà nei prossimi giorni la gente rispetto a nomi che sicuramente sono già noti e che il popolo conosce già, in genere conosce soprattutto per la loro brutalità repressiva. Le 13:17 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato della situazione in Libia, dove Gheddafi è tornato a parlare e ha chiesto l'intervento dell'Unione Africana, ma a Londra, dove tra pochissimo inizierà la prima riunione del gruppo di contatto, l'Unione Africana non ci sarà. Abbiamo parlato anche della situazione di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati altri 450 immigrati, continua la protesta dei residenti, è stato occupato il municipio. Tra pochissimo andremo a Fukushima, dove c'è plutonio intorno alla centrale, il governo ha garantito che la ricostruzione avverrà con energia pulita. Parleremo anche della Roma Calcio, ripresa la trattativa per la cessione, ora una sospensione, poi dal pomeriggio ad oltranza. allora, come detto, ci trasferiamo in Giappone, dove si registra anche una nuova scossa di terremoto avvenuta alle 12:54 ora italiana, dunque proprio poco fa, una magnitudo di 6,4 con epicentro in mare a circa 80 km al largo di Fukushima. Non è stato emanato nessun allarme tsunami. Tutti gli aggiornamenti da Tokyo con Stefano Carrer. Le tracce di plutonio rilevate nel suolo della centrale di Fukushima hanno rilanciato l'allarme radioattività in Giappone e nel mondo. Assieme agli alti livelli radioattivi riscontrati nell'acqua alla centrale, fanno ritenere infatti che ci sia stata una fusione parziale del nocciolo di uno o due reattori e rallentano l'opera dei tecnici che cercano di riportarli sotto controllo. In una situazione che rimane confusa, il premier Naoto Kan è sempre più sotto pressione perché allarghi la zona di evacuazione, finora limitata a un raggio di 20 km intorno alla centrale. Kan ha da poco annunciato che saranno stanziati da 2.000 a 3.000 miliardi di yen, intorno a 25 miliardi di euro, per far fronte alle esigenze della ricostruzione. Un bilancio suppletivo, dunque, dopo quello generale varato oggi dal Parlamento, anche se l'opposizione l'ha respinto alla Camera Alta. Non è ancora chiaro come sarà finanziato, certo con ulteriori emissioni di titoli di Stato, ma forse anche con un aumento della pressione fiscale. Comincia intanto a circolare l'idea che la TEPCO, la società di gestione della centrale fornitrice di elettricità a Tokyo, dovrà essere nazionalizzata. Su questa notizia le sue azioni sono crollate nuovamente, toccando i minimi da 47 anni. Intanto a Tokyo è arrivato un nuovo team allargato di tecnici della Protezione Civile Italiana e sono in corso consultazioni per decidere se rendere disponibili o meno ai connazionali rimasti a Tokyo le pasticche di iodio contro la radioattività, come alcune altre ambasciate hanno già fatto. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. E torniamo in Italia con la giustizia. Presente ieri al processo MediaTrade, oggi è tornato a parlare anche il premier Berlusconi. Ci colleghiamo in diretto con Roma, con Elisabetta Fiorito. Di nuovo a fondo sulla giustizia, in particolare contro la Procura di Milano, quello del premier Silvio Berlusconi di stamattina. Sono stati sperperati milioni di euro per il processo MediaTrade, ma noi, è convinto il Presidente del Consiglio, ne usciremo più forti di prima, ma sentiamo il premier. Ho deciso di partecipare a queste nuove udienze per dimostrare a tutti che le accuse contro di me non sono solo infondate, ma sono anche ridicole. L'accusa è totalmente falsa. Così falsa che c'è da chiedersi con quale coraggio la Procura di Milano abbia insistito a spenderci sopra, tra consulenze, rogatorie e atti processuali, qualcosa come una ventina di milioni di euro tolti, naturalmente, dalle tasche dei contribuenti. Nel processo MediaTrade Berlusconi è imputato di frode fiscale e concorso in appropriazione indebita per le vicende legate all'acquisizione di diritti televisivi negli Stati Uniti per trasmissione di film. Per la Procura di Milano Berlusconi era socio occulto di Frank Agrama, ma Berlusconi precisa che per acquistare i prodotti Paramount Mediaset doveva per forza trattare con Agrama, che il premier ha incontrato solo un paio di volte negli anni '80. Il processo MediaTrade è solo uno dei 31 avviati contro di lui in 17 anni, 24 si sono conclusi, precisa Berlusconi, con l'assoluzione in formula piena. E per il momento qui da Roma è tutto, poi studio. Grazie Elisabetta, noi a Roma restiamo, ma per parlare della Roma Calcio, una decisione potrebbe arrivare forse anche in giornata. La trattativa con Tom Di Benedetto è infatti ripresa questa mattina, la sta seguendo Nicola Filippone dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Cora. Nicola, allora una ripresa, poi una pausa? Esatto, buon pomeriggio. Prosegue la trattativa tra l'uomo d'affari statunitense Tomas Di Benedetto e Unicredit per la cessione del 60% della Roma. Dopo che ieri i colloqui sono andati avanti per circa 10 ore, stamattina sono ripresi presto, intorno alle 9.30, nella sede dello studio legale Grimaldi Associati nei pressi di Villa Borghese. Poi a mezzogiorno, quello che sembrava essere un colpo di scena, sembrava che ci fosse appunto un annuncio imminente all'uscita di Di Benedetto e dei suoi legali, che però senza rilasciare alcuna dichiarazione si sono recati nella vicina sede dell'antitrust, dove era presente anche il presidente di Roma 2000, Tilio Zimatore, la società cui fa capo il club giallorosso. La visita all'antitrust rientra negli atti preliminari e di cortesia che si fanno quando avviene un'acquisizione rilevante. È durata una mezz'oretta, dopo le parti sono rientrate nello studio legale intorno a mezzogiorno e mezza per riprendere una trattativa che a meno di colpi di scena dovrebbe essere vicina alle battute finali, anche se proprio Zimatore, appena riuscito allo studio legale, ha dichiarato che non finirà presto. È tutto tutto per ora da Roma, linea allo studio. Grazie Nicola, dunque staremo a vedere. La borsa adesso, oggi particolare debolezza a Milano causata dai timori di nuovi aumenti di capitale nel settore del credito. Banche italiane in forte calo, in particolare UbiBanca che al momento perde il 10,40 dopo l'annuncio dell'aumento di capitale fino a 1 miliardo arrivato ieri. Ed è fallito a Bruxelles dopo 12 ore di negoziati il tentativo di conciliazione tra il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ed il Parlamento Europeo, chiamati a decidere sull'arrivo di cibi provenienti da animali clonati sul tavolo degli europei. Senza un accordo definitivo entro domani decade la proposta per garantire il diritto di scelta dei consumatori. E noi per la cronaca torniamo nella capitale, dove questa mattina c'è stata una manifestazione degli insegnanti precari. State sentendo, i precari sono scesi in piazza dopo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Genova che ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire con circa 500.000 euro, 30.000 a testa, 15 lavoratori precari della scuola che avevano presentato ricorso per la loro mancata stabilizzazione. Ora il rischio è quello di ricorsi a valanga. Roberta Pellegatta lo ha chiesto a Marcello Pacifico, presidente del sindacato ANIEF. Ci troviamo oggi qui a sostenere le ragioni di più di 20.000 docenti che reclamano il diritto all'inserimento nelle graduatorie, hanno frequentato corsi universitari a numero chiuso sanciti con decreto del ministro Gelmini e però la mobilitazione non ha alcun valore perché non possono essere inseriti nelle graduatorie da cui si assume il personale sia per le supplenze sia per le nomine in ruolo. Abbiamo chiesto degli incontri sia qui al Ministero ma anche al Senato e alla Camera proprio per parlare di questo tema, ma anche per affrontare pure le problematiche in generale del precariato alla luce delle ultime sentenze. Ecco, alla luce della sentenza di Genova, ora cosa potrebbe succedere? Ci sono più di 150.000 supplenti che per più di un decennio hanno insegnato anno dopo anno come supplenti annuali su posti vacanti e disponibili e che ora hanno fatto ricorso ai tribunali del lavoro per chiedere l'immissione in ruolo oppure il risarcimento danni. Quindi stiamo parlando di un danno erariale di almeno 4 miliardi di euro nel caso in cui il Parlamento non provveda subito con una legge che stabilizzi questi precari. Apriamo una parentesi sulle prossime elezioni amministrative perché c'è stata la decisione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni rispetto appunto alle amministrative e rispetto ai programmi, alle regole per la par condicio tra i talk show e le tribune politiche. Ebbene, questa mattina è stato deciso che ci saranno regole distinte dunque per la par condicio nei talk show rispetto alle tribune politiche. Questa la strada scelta dalla Gcom. La cronaca da Busto Arsizio, dove gli agenti della Questura di Varese hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti esponenti del clan Madonia. Tema centrale dunque le infiltrazioni della mafia al nord. Il dirigente della squadra mobile di Varese, Sebastiano Bartolotta, al microfono di Adriana Fracchia. È un'operazione che nasce nel gennaio del 2010 e ci ha consentito di decapitare una organizzazione criminale composta da elementi di spicco del clan Madonia. È stato contestato il 416 bis, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso, ma siamo riusciti anche a contestare l'aggravante del metodo mafioso ai singoli episodi delittuosi, cioè alle singole estorsioni e ai singoli attentati incendiari. Era un'attività criminale che colpiva prevalentemente imprenditori della provincia di Varese con un particolare riferimento alla zona di Busto Arsizio e molti di loro erano di origine gelese. È stato fatto uno screening su tutti gli episodi incendiari nella provincia di Varese. Siamo riusciti ad ottenere denunce soltanto da alcuni imprenditori. Riteniamo che ne manchino molti all'appello e speriamo che presto si rivolgano alle istituzioni. Il calcio, venerdì scorso il successo fondamentale verso Euro 2012 in Slovenia, stasera per la nazionale di Cesare Prandelli, amichevole a Kiev contro l'Ucraina. Gli assenti hanno sempre torto, recita il vecchio adagio. Ancor di più viene da dire se hanno un talento sconfinato e lo sprecano a tirar calcioni alle avversarie e freccette ai ragazzi della primavera del proprio club. Perché queste sono in ordine di tempo le ultime due prodezze di Mario Balotelli con la maglia del Manchester City. Stasera a Kiev Super Mario non ci sarà e il suo gemello diverso, Antonio Cassano, sarà in panchina. Prandelli proverà a titolare Pepito Rossi, sinistro da favola, poche chiacchiere e tanto duro lavoro. Un tipo che in Italia e all'estero piace parecchio, basti pensare che sulle sue tracce c'è anche il Barcellona di Pep Guardiola. Chiaro segnale ai naviganti nel mare azzurro. Più che sgomitare per conquistare copertine da tabloid o scatti fotografici di grandi scherzi da caserma in allenamento, qui tocca lavorare e remare tutti dalla stessa parte, sperando che il messaggio arrivi forte e chiaro anche a Manchester e Bari Vecchia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie regia Filippo Aureggi. Adesso c'è Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.